Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. La figura dell'imprenditore riveste da sempre un'importanza centrale nella società e nell'economia. Già alla metà del 400 possiamo rintracciare diversi elementi di grande interesse sul ruolo del mercante, come lo si definiva allora. Tra questi l'etica nel fare business, la meritocrazia, la professionalità, ma anche il coraggio e l'iniziativa imprenditoriale. E poi, attualissimo, i rapporti tra politica e affari. Ci aiuta a saperne di più un interessante libro che si intitola Dell'arte della mercatura di Benedetto Cotrugli, a cura di Vera Ribaudo, con la premessa di Tiziano Zanato, pubblicato dalle edizioni Ca' Foscari di Venezia. Il libro, che ha costituito la base per la traduzione in inglese, curata da Carlo Carraro e Giovanni Favero per la casa editrice Palgrave Macmillan, con l'introduzione di Niall Ferguson. Il libro è un gioiello nascosto della nostra cultura, poiché tratta, oltre che di etica commerciale, vi ricordiamo che è stato il primo a descrivere la partita doppia, ancor prima di Luca Pacioli, ma anche di molti altri aspetti, appunto di tipo etico, politico e culturale. Ne parliamo questa sera con il dottor Fabio Sattin, chairman di Private Equity Partners, nonché docente di Private Equity alla Bocconi e membro del comitato scientifico del Collegio Internazionale di Ca' Foscari di Venezia. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Allora, ascoltiamo prima di tutto insieme questo passaggio tratto dalla premessa di Tiziano Zanato. Benedetto Cotrugli era originario di Ragusa, in Dalmazia, dove era nato nella seconda decade del 400. Avviato inizialmente agli studi giuridici all'Università di Bologna, aveva dovuto interromperli per essere immerso, suo malgrado, nel mondo dei mercanti. Ha inizio così un'attività febbrile che porterà Benedetto a navigare e viaggiare verso le principali mete commerciali mediterranee, da Venezia a Napoli, da Firenze a Barcellona, salvo poi decidere di fermarsi proprio nel Regno di Napoli, sotto Alfonso il Magnanimo prima, sotto Ferrante poi. Scopo della mercatura è la volontà e desiderio d'acquistare roba con onore et senza offendere Dio et lo prossimo. Vale a dire, è il naturale appetito di arricchire, che deve sottostare però a regole divine e umane. Su questa direzione si muoverà dunque il trattato. La figura del mercante ha ispirato, come sappiamo, diverse pièce teatrali e opere varie e film. Questo è un passaggio del famosissimo Il mercante di Venezia, film del 2004, diretto da Michael Redford. È la scena in cui Antonio chiede 3.000 ducati a Skylock. Per il signor Antonio. Antonio! Antonio! Che aria da pubblicano lecca piedi. Shylock! Shylock, mi sentite? Sto verificando le mie disponibilità e, andando così a memoria, non credo di poter mettere assieme tutti i 3.000 ducati che mi avete chiesto. Ecco, allora, dottor Sattin, ci aiuti un attimo meglio a capire, a entrare un po' più nel merito di questo importante libro. Si parla dell'arte della mercatura e abbiamo potuto riscontrare con notevolissimi elementi di interesse anche per l'attualità. Sì, è vero, intanto grazie per questo, diciamo, questo approfondimento su questo libro, che è veramente un libro, lasciatemi dire, straordinario, molto poco conosciuto, e che grazie a questo lavoro fatto dall'Università Ca' Foscari in primis, che, diciamo, reperendo anche i testi originali, alcuni manoscritti, diciamo, no, è riuscita a ricostruire, diciamo, molto fedelmente il testo, che è del 1458, quindi un testo estremamente antico, quindi probabilmente uno dei primissimi manuali di imprenditorialità, diremo oggi, mai scritti, e ha consentito poi successivamente al grande lavoro della Vera Ribaudo e di Zanato l'edizione in inglese, no? Pubblicata da Palgrave Macmillan, quindi una casa estremamente prestigiosa, che dovrebbe dare a questo punto una, no, una dimensione internazionale anche a questo scritto. So che Harvard School farà un evento tra un paio di mesi proprio per, diciamo così, no, celebrare quest'opera, che è un'opera, diciamo, anche scientificamente estremamente interessante, e che anche, diciamo, un po' orgoglio da italiano, no? Ricorda un po' al mondo dove sono nate le radici della mercatura e dell'etica mercantile, no? Perché, diciamo, per partire un po' su questo discorso, no? C'è un po' quasi un falso mito, no? Che l'imprenditorialità nasce un po' col protestantesimo, eccetera. In effetti nasce qui nel Mediterraneo, no? In questo periodo, dalle nostre parti, tra Firenze e Venezia, diciamo, con un'etica molto stretta, molto rigida, no? E sì, diciamo anche con delle direttive molto chiaramente anche di tipo cattolico, quindi diciamo sicuramente con un rapporto anche molto stretto con la religione, ma certamente diciamo con delle direttive, come le diceva, di tipo etico, sostanziale, morale, estremamente attuali, che magari i nostri imprenditori, i nostri mercanti di oggi seguissero. Ecco, ma proprio questo aspetto dell'etica è molto interessante. Nel 400, quindi siamo ancora sostanzialmente alla fine del Medioevo, un libro così importante si focalizza sul tema dell'etica. Ecco, come lo possiamo contestualizzare, dottor Sattini? Ecco, lo possiamo contestualizzare qui, siamo nel Rinascimento, ecco, no? Sì. Prima fiorentino, diciamo, no? E poi chiaramente è arrivato anche nelle sponde del Mediterraneo, quindi siamo proprio in un momento in cui si cercava di andare dentro, no? Cioè il momento, diciamo, delle arti, dei mestieri, no? Diciamo di uscire da un periodo buio, no? E di dare, diciamo, importanza e spessore alle attività umane in generale, siano esse artistiche, nel senso tipo commerciali. Quindi così si inquadra il Cotrugli. Il Cotrugli voleva fare, a dire la verità, il docente universitario, era figlio di mercanti, di Cattaro, no? Sì. Però diciamo era un po' dibattuto, no? Alla fine è stato costretto, tra virgolette, a fare il mercante, però l'ha voluto fare in modo diverso, no? Dando uno spessore diverso alla sua attività e soprattutto volendo mettere, come lui dice, per iscritto delle direttive per fare in modo che i mercanti della sua epoca, ma lui scrive nel suo libro, mi auguro che anche le parecchie generazioni a venire verranno a leggerlo, ed è quello che noi stiamo facendo. Cotrugli, ricorda, è nato a Ragusa 600 anni fa, il 2016 è stato il 600° anniversario della sua nascita, era il 2416, no? Ed è tuttora attualissimo, no? In cosa è attuale, no? Sì. È attuale in molti passaggi, no? Innanzitutto l'ethos, no? Cioè l'etica mercantile, il fine ultimo della mercantile è acquistare con onore. No? Certo, poi si c'è dice il tema della professionalità anche, direi. Esatto, cioè, no, per esempio sull'etica, che è la cosa più importante, lui dice debba essere homo da ben, di composta mente, integro e saldo, estimando in grande dignità le sue parole e summa integrità la sua promessa, quindi grandissima etica, sì. Non può si rifà tra l'altro a Cosimo de' Medici, a questo tipo di, diciamo, matrice culturale. Sul ricambio generazionale, tra l'altro, un'altra grande lezione, no? Non era il primogenito, cioè, no? Come si identifica dall'età puerile il figlio in grado o no di andare avanti, quindi non è che per definizione i figli fossero in grado, no? E lui dice, no, che non solo lo si deve vedere in età puerile se è troppo vario o vagabondo, e quindi se è troppo vario e vagabondo è bene che non lo faccia, no? Ma solo se troviamo l'inclinazione e non dobbiamo pigliare la contesa con la natura per volerla vincere. Sostanzialmente, se non ha il DNA giusto, è bene che non faccia il mercante. Una grande lezione anche per i nostri imprenditori. Una grande lezione che poi si lega anche alla parte che riguarda il coraggio e l'iniziativa imprenditoriale, perché non dimentichiamolo, nel 400, al pari dei tempi moderni, questo è una, è come dire, è una cifra fondamentale nel fare, nell'intraprendere. Ecco, questo è importante, che dice? No, è importantissimo perché se ne parla poco, no? Si parla molto, sì, di professionalità, dove il Cotrugli chiaramente dalla partita doppia, quindi professionalità tecnica, ma per il Cotrugli la professionalità era una professionalità generale. Lui definisce il mercante perfetto, le sue parole, perché volendo costituire lo mercante perfetto mi bisognerebbe fare un uomo universalissimo, compiuto e dotato di ogni facoltà, cioè quindi cultura generale e cultura specifica, no? Ma di questo però se ne parla anche adesso ed è super attuale. Però spesso si dimentica che bisogna avere anche coraggio, certo, no? Certo. Il coraggio è un elemento fondamentale dell'intraprendere. Chiaramente come dice Cotugli, debba mezzamente osare, cioè quindi un'intraprendenza ragionata, certo. Quindi coraggio, astuzia, ma sempre con ragionamento e con bilanciamento, quindi un altro messaggio molto importante per gli imprenditori di oggi, che devono rischiare, no? In quanti casi vediamo che queste società, ci lamentiamo perché molte società italiane vanno ad imprenditori esteri che ce le comprano e quando i nostri sono qui e non le fanno, e probabilmente non sono abbastanza coraggiosi, no, non sono abbastanza coraggiosi. Un'ultima cosa, dottor Satin, i rapporti tra politica e affari, se riusciamo a sintetizzarli in un minuto. Il Cotugli non sarebbe d'accordo probabilmente sì. Né con Trump né con altri, no? Molto sinteticamente definisce queste cose pericolosissime, dice che il mercante, molto semplicemente, non è conveniente al mercante impicciarsi e massime ad avere magistrati o amministrazioni pubbliche, non è cosa da mercanti, sono terreni separati che non vanno messi uno mischiato all'altro. Bene, anche questa dunque una grande lezione per il presente, noi la ringraziamo moltissimo e insomma molti auguri e per un successo di questo interessantissimo libro dell'arte della mercatura di Benedetto Cotrugli, di cui abbiamo parlato questa sera. Arrivederla e grazie ancora. Arrivederla, grazie a voi.